pensiero riflettete, saggia non è codesta ostinatezza vostra, angoscia grande, pronta confessione vi darà. Io vi consiglio di te. Dov'è dunque Angelotti? Dai la fa! L'ultima volta! Dov'è? Dai fa! Come i tratti di corda! Ecco! Mario, da qui! E quanto l'avessi stato, Muccini! Mario Cavaradossi! Quanto fu alta, perché abbiate paura di...